Italia in controluce. 13:33 minuti, buona giornata gentili ascoltatori da Alessio Maurizi, ben ritrovati all'appuntamento con le storie della cronaca che non avete sentito altrove. Questa è l'Italia in controluce. 29 giugno di 2 anni fa, l'incidente ferroviario della stazione di Viareggio, 32 vittime. Per l'esplosione causata dalla fuoriuscita di gas da un treno merci in seguito a un deragliamento proprio nei pressi della stazione. La Procura di Lucca ha aperto un'inchiesta che vede indagate 38 persone, tra le quali anche i vertici delle Ferrovie dello Stato. Oggi Viareggio commemora una giornata particolare, un'iniziativa che vedrà riunite le associazioni italiane dei familiari delle stragi. Ne abbiamo parlato con Daniela Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei. Oggi a Viareggio, per il secondo anniversario, il nostro 29 giugno, succede secondo me una cosa molto molto importante che io non credo che sia mai accaduta prima. Ci saranno tantissime associazioni o comitati di altre stragi italiane che verranno qui a Viareggio, oggi alle 5 al Palazzetto dello Sport. E questa cosa era nata un po' all'Aquila il 6 aprile scorso, oggi credo che riusciremo a ratificarla, la firma cioè di un documento comune di intenti dove ogni associazione o comitato, ognuno con la propria specificità, però aderirà in modo da formare una rete, un coro unico che dà sicuramente più forza, questa voce sarà più alta, per insieme chiedere verità e giustizia sulle troppe stragi italiane rimaste impunite o comunque con delle sentenze tipo quella della Moby Prince, 140 morti, nessun colpevole. Ecco, noi oggi il nostro 29 giugno lo celebriamo così, ci ritroveremo tutti a discutere, a leggere, a integrare questo documento e dopo verrà letto stasera in uno degli interventi che faremo alla stazione, perché appunto dopo le 5 l'appuntamento, dopo un piccolo buffet che noi prepariamo per queste persone care, per gli altri familiari come la Thyssen, l'Aquila, San Giuliano di Puglia, Casalecchio di Reno, Comitato Matteo Valenti, Moby Prince appunto ed altri, l'Amianto, Casale Monferrato, insomma e tanti altri. Ci ritroviamo l'appuntamento grosso alle 21 davanti alla piazza del comune per fare il corteo come l'anno passato. Senta, lei ha citato i nomi di alcune associazioni che parteciperanno a questa iniziativa. Che cosa vi proponete di fare con questa rete di associazioni di familiari delle stragi in Italia? Le faccio un piccolo esempio, sì, per quello che intendiamo. Per esempio il 13 aprile quando l'associazione Il Mondo Che Vorrei è andata a Roma, non c'è andata da sola, c'è andata insieme all'Aquila, alla Casa dello Studente, c'è andata insieme alla Moby Prince e c'è andata insieme ai minatori della Sardegna, del Tulcis. Eravamo tanti, ma non tanto numericamente perché non è facile anche spostarsi alcune volte, ma era grande la nostra voce, era grande la nostra voce che, e io guardi le assicuro che dal giorno prima a quel giorno il governo ha fatto marcia indietro sul processo breve, ha continuato sulla prescrizione breve, ma il processo breve non hanno potuto metterlo in piazza. Senta, voi oggi familiari delle vittime della strage di Viareggio 29 giugno 2009, che cosa chiedete ai vostri interlocutori, che cosa chiedete allo Stato e alla giustizia italiana? Dunque noi chiediamo principalmente, noi siamo nati e continuiamo con questi tre obiettivi principali, la verità, e questa la stiamo cominciando ad intravedere appunto dall'incidente probatorio che è ancora in corso. A questo proposito, appunto domani 30 giugno e 1 luglio ci sarà ancora un incidente probatorio all'Overe dove presumibilmente verranno consegnati i risultati delle prove irripetibili e non che sono stati fatti sull'asse e sulla cisterna. Ecco, a questo proposito, per esempio, noi domani comunque saremo all'Overe, avremo una nostra presenza a sostenere i nostri avvocati, i nostri periti. Quindi il nostro primo obiettivo è avere una verità e poi avere giustizia. Sappiamo purtroppo che la giustizia che uscirà fuori dalle aule dei tribunali non sarà quella vera, quella giusta, sarà una giustizia processuale, una verità processuale, e noi comunque al di fuori delle aule, come stiamo da sempre facendo, noi comunque diremo sempre la nostra verità, che è quella vera delle persone che c'erano, che hanno visto e che hanno vissuto. E il terzo obiettivo, che è che va al di là della nostra situazione particolare, che comunque noi adesso dobbiamo sapere questa, ma al contempo noi stiamo studiando veramente, nel vero senso della parola, e stiamo facendo ogni qualsiasi azione affinché venga, ci sia la sicurezza in ferrovia, specialmente nel trasporto di merci pericolose. Senta, lei citava il fatto che sarete a Lovere, dove viene svolto l'incidente probatorio, che ha già messo in evidenza alcune cose che poi dovranno essere riportate, le perizie dovranno essere trascritte al tribunale e quant'altro. Ci vorrà tempo. All'interno di questo sviluppo dell'inchiesta, quali sono le considerazioni che adesso voi vi sentite di fare? Le nostre considerazioni sono molto molto amare, guardi, perché pensare, sapere che un treno ha deragliato perché un asse si è rotto, ma non perché aveva un difetto, un guasto, no, perché era completamente marcio, completamente arrugginito, con delle caverne all'interno. Ecco, sapere che perché qualcuno non ha fatto, non ha controllato, non lo ha guardato, non lo ha... Ecco, è veramente allucinante. 32 persone che erano in casa sono morte perché qualcuno non ha mai guardato quell'asse che era marcio. Non ci scordiamo quello che sta uscendo dai documenti della Polfer, tutto il problema sul cabotaggio che non c'è mai stato, non è mai esistito. Ma come girano questi treni? Ma chi li mette in giro così? Non c'è niente, non c'è nulla, quel treno non si sa da dove veniva, perché era lì, chi ce l'ha portato, dove andava sì, lo sappiamo, e da dove è partito, punto. Non c'è una procedura di cabotaggio obbligatoria, e impone la procedura di cabotaggio due tipi di controlli, uno ogni 2 anni e uno ogni 4, che se venivano fatti probabilmente si vedeva che quell'asse non era in condizione di girare. Italia in controluce. Queste le parole di Daniela Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, sull'anniversario della strage di Viareggio il 29 giugno di 2 anni fa. Ricordiamo che l'inchiesta è ancora in corso e non ci sono ancora delle sentenze. Adesso invece storie di chi lotta contro la criminalità. I comuni di Seregno e Giussano, siamo in Lombardia, hanno deciso di costituirsi parte civile in alcuni processi per 'ndrangheta scaturiti dall'operazione Infinito, che un anno fa ha portato all'arresto di oltre 170 persone affiliate proprio alla 'ndrangheta in Lombardia. Il 20 giugno scorso c'è stata per questi due comuni una prima importante vittoria. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto a entrambi 10.000 euro ciascuno come risarcimento per i danni all'immagine. Il sindaco di Seregno, Giacinto Mariani, ai microfoni di Roberto Gallullo, spiega le ragioni della scelta di costituirsi parte civile come riconoscimento e reazione proprio alla presenza ingombrante dell''ndrangheta in Brianza. Direi che è una presa di posizione importante, ma soprattutto doverosa, perché la dobbiamo al nostro territorio e ai nostri cittadini, soprattutto chi ha responsabilità di governo, e il primo cittadino, l'amministrazione, è la responsabilità principale in queste situazioni estremamente, le definirei allucinanti, aberranti, incredibili, cioè la mafia che si infiltra nei territori. Costituirsi parte civile è obbligatorio, ma soprattutto un segnale importante. Certo, ha elencato 300 arresti qui in Brianza, ne hanno fatti oltre 300, e anche sul nostro territorio, parlo per il territorio di Desio e di Giussano, gli arresti per quanto riguarda il comune di Seregno sono stati 5 o 6, sì, anche se di persone che erano residenti sul nostro territorio. Certo. Anche se gli altri mafiosi arrestati comunque venivano a delinquere sul territorio brianzolo, lombardo. Ricordiamo che questa inchiesta certificò che nel territorio di Giussano Seregno esiste un locale di 'ndrangheta. Che cos'è un locale di 'ndrangheta? Non è purtroppo un edificio in cui si va a prendere una bibita o si va a consumare un pasto, ma locale vuol dire una cellula strutturata,